Letture di Radio 24. Cosa diavolo servono questi ordini se non riescono a tenere ordine? Si chiede Gian Antonio Stella su 7. I casi di condannati per reati gravi che tuttavia rimangono nei rispettivi ordini professionali solleva più di un dubbio sull'effettivo ruolo degli stessi ordini, che dovrebbero vigilare sulla specchiata condotta morale degli appartenenti. L'ex assessore comunale di Palermo, Domenico Miceli, è fuori dalla grazia di Dio. Non riesce a capire perché lo abbiano messo alla porta prima il policlinico palermitano e poi la casa di cura a Villa Serena, per il solo fatto di essere stato condannato in assise e poi in appello, più una sostanziale conferma in Cassazione, come vedremo, per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato tra l'altro intercettato mentre dava informazioni al capomafia di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. Che c'entrano quelle sentenze, dice, con la sua professione e il giuramento di Ippocrate? È stata calpestata la mia dignità di uomo, di professionista e di padre di famiglia. Ho il diritto di svolgere la mia professione di medico e combatterò in ogni sede per farlo valere. Si è sfogato Miceli con livesicilia.it. L'assessore regionale per la salute, Massimo Russo, non è però d'accordo e ha inviato una lettera al presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, al quale l'imputato è iscritto, per sapere a che punto stia il procedimento disciplinare. Dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con il Policlinico di Palermo, vogliamo essere vigili su una situazione delicatissima dal punto di vista etico-professionale che si è venuta a creare con l'assunzione di Miceli in una struttura privata convenzionata. E ha aggiunto: è appena il caso di ricordare che la Cassazione, con una sentenza depositata recentemente, pur disponendo il rinvio al giudice d'appello per la determinazione della pena, ha riconosciuto la responsabilità penale di Domenico Miceli per concorso esterno in associazione mafiosa. Non ho ancora una condanna definitiva e fino a quel momento ho tutto il diritto di svolgere la mia professione, insiste Miceli. Ho dato mandato ai miei legali di intraprendere un'azione giudiziaria contro l'ingiustificata aggressione che ho subito. Qualche precedente gli dà ragione. Per esempio, solo adesso, dopo la condanna definitiva, Totò Cuffaro è stato radiato dall'Ordine dei Medici. Ma proprio questo è il punto. Davvero gli ordini professionali hanno il diritto di sospendere un iscritto soltanto dopo una condanna definitiva in Cassazione? Non dice forse la legge che devono vigilare sulla specchiata condotta morale degli appartenenti a questo o quell'albo? Non bastano due sentenze e mezza per sospendere un professionista già condannato per reati gravissimi? Allora, insistiamo, tanto vale abolirli, gli ordini. Se per tenere ordine devono aspettare la sentenza definitiva in Cassazione, e neanche quella basta, a volte, come dimostra il caso del medico Alfonso Lozito, condannato in via definitiva per voto di scambio con mafiosi, ma tuttora al lavoro ad Agrigento in una struttura convenzionata con la Regione, a cosa diavolo servono questi ordini? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Aboliamo gli ordini di Gian Antonio Stella, da 7 di giovedì 12 maggio. Letture di Radio 24. Nel 2004 volevano essere imprenditori, oggi sognano di fare gli impiegati. Una ricerca su un campione di persone tra i 26 e i 50 anni rivela la rivincita del ragionier Fantozzi e l'abbassamento delle pretese tra coloro che hanno un titolo di studio. È la rivincita dei Fantozzi, quel ragionier Ugo che negli anni 70 era il simbolo del travetto vessato, condannato a una vita mediocre e grigia, oggi sarebbe impensabile, perché negli anni 10 del terzo millennio scopriamo che l'impiegato è il mestiere più agognato. Altro che sogni di gloria, di fama e di potere. Tutto quello che vogliamo è un posto sicuro che ci protegga dalle avversità del mondo. Un posto da impiegato, appunto. A dimostrarlo è un'indagine di Adecco, la più grande agenzia per il lavoro in Italia, che ha condotto una ricerca su un campione di 6.500 persone, di età compresa tra i 26 e i 50 anni. Il 49% degli intervistati ha un'età compresa tra i 26 e i 35 anni e chiedendo quale fosse il lavoro dei loro sogni. E l'impiegato è quello che ha raccolto più voti. Ai tempi di Fantozzi, però, la vita da impiegato era destinata a chi raggiungeva, magari a fatica, un diploma di scuola superiore. Oggi a sognare un posto da impiegato sono laureati con master. La ricerca ci parla di un mondo giovanile che sogna fino a 20 anni di diventare calciatore, modella o regista. Poi assaggia la vita e rivaluta il posto fisso da impiegato. Storie comuni, in bilico tra sogno e realtà. Qualcosa di simile a ciò che è accaduto a Marco, la laurea in scienze politiche a Milano e master in cooperazione internazionale. Finiti gli studi, decide di fare un'esperienza concreta. L'unica strada per coltivare il mio sogno, spiega Marco, era quella del servizio civile internazionale. Sono partito per la Colombia al seguito di una ONG per un progetto di un anno. Al ritorno, il servizio civile si è concluso e la ONG non ha più fondi per rifinanziare il progetto. Cominciai a contattare altre associazioni e organismi internazionali, ma chiedono almeno 4 anni di esperienza, oppure dicono che c'è la crisi e non ci sono i soldi. Marco si guarda attorno. Il lavoro dei suoi sogni si allontana giorno dopo giorno, colloquio dopo colloquio. Ormai ha 29 anni. Decide di mettere da parte i sogni e ricercare di portare a casa almeno uno stipendio. Oggi lavora in un'assicurazione e il suo sogno è di passare dal ruolo di agente a un ruolo amministrativo in sede. Per rendere ancora più incisivo l'esito della ricerca, basta fare il raffronto con la stessa, condotta sempre da Adecco, 10 anni fa. Allora il sogno era quello di mettersi in proprio. Allora il sogno era quello di mettersi in proprio e di tentare la fortuna e le sfide dell'imprenditorialità. E l'impiegato si trovava in fondo alla classifica, appena sopra il netturbino e l'operaio. In 10 anni tutto si è capovolto. Troppi rischi, troppi fallimenti e una precarietà che strangola anche i sogni. Simile la storia di Francesca. Una laurea in giurisprudenza a Roma, 2 anni di pratica e diversi tentativi per diventare avvocato. Intanto continua a faticare all'interno di uno studio legale con gli orari di un dipendente e una paga di 800 euro al mese. Poi arriva l'agognato giorno. «Finalmente avevo superato l'esame da avvocato», spiega Laura. «Il giorno dopo vado dal mio capo e chiedo di essere assunta». «Ma come segretaria? Almeno così avrei avuto gli straordinari pagati», la maternità garantita e le ferie sicure. L'avvocato mi ha guardato con incredulità e sconcerto, ma poi ha accettato e io oggi sono in grado di progettare il mio futuro. Quindi anche i sogni diventano low cost nel timore che abbiano un costo troppo alto. Oggi, in un periodo di precariato sociale e di incertezza biografica, le persone cercano sicurezze, spiega il sociologo Antonio De Lillo. Chi oggi ha 35 anni ha vissuto un lungo periodo di incertezza economica, non solo gli ultimi 2 anni. Ma l'aspetto più insolito è che ad ambire a un ruolo da impiegato sono anche laureati o persone che hanno addirittura conseguito un master. Chi ha conseguito un titolo di studio abbassa le pretese. Non è un caso se stiamo assistendo a un calo nelle iscrizioni all'università. Ci si è resi conto che il titolo di studio non rende economicamente rispetto all'investimento necessario in termini di impegno. A rinunciare sono soprattutto i figli della classe media, dove la laurea non è una tradizione familiare da generazioni e dove il capitale sociale di relazioni, così utile per trovare un lavoro, è inesistente o scarso. Questo scenario è preoccupante per il sistema paese perché questo atteggiamento di rinuncia influisce anche sulle prossime generazioni e quindi si rischia un'involuzione della società. Naturalmente restano tanti i giovani che non rinunciano a coltivare i loro sogni e le loro ambizioni, anche se esistono epoche in cui il confine tra aspirazione e illusione diventa davvero molto sottile. E questa sembrerebbe una di quelle, al punto che anche diventare Fantozzi può trasformarsi in un'aspirazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il lavoro e la rivincita del ragionier Fantozzi, di Isidoro Trovato, dal Corriere della Sera di domenica 15 maggio.